458. Pesce marinato. Sono parecchie le specie di pesci che si possono marinare, ma io preferisco le sogliole e le anguille grosse. Se trattasi di sogliole, friggetele prima nell'olio e salatele. Se di anguilla, tagliatela a pezzi lunghi circa mezzo dito e senza spellarli, cuoceteli in gratella o allo spiedo. Quando hanno gettato il grasso, conditeli con sale e pepe. Prendete una cazzaruola e in essa versate in proporzione del pesce aceto, sapa, che qui ci sta come il cacio su maccheroni, foglie di salvia intere, pinoli interi, uva passolina, qualche spicchio d'aglio tagliato in due per traverso e del candito a pezzettini. Mancandovi la sapa, supplite con lo zucchero e assaggiate per correggere il sapore dell'aceto se fosse troppo forte. Fate che questo composto alzi il bollore e poi versatelo sul pesce che avrete collocato in un tegame di terra, disteso in modo che il liquido lo investa da tutte le parti. Fategli spiccare un'altra volta il bollore col pesce dentro, poi coprite il vaso e riponetelo. Quando lo servite in tavola, prendetene quella quantità che vi ha bisogno, con un poco del suo intinto, unendovi anche porzione degli ingredienti che vi sono. Se col tempo il pesce prosciugasse, rinfrescatelo con un altro poco di marinato. Anche l'anguilla scorpionata, che è messa in commercio, potete prepararla in questa maniera.